Allora, no, dicevo, presentati da quale città provieni. Sono Nicola Canetti, sono delegato all'interno dell'azienda Gruppo Arriva di Brescia Trasporto Pubblico Extraurbano. Ok, ok. Ascolta Nicola, pensiamo che la continuità degli scioperi, c'è stato il mese scorso, adesso ce n'è un altro, sia insomma l'arma più efficace per contrastare questi tentativi di precettazione, questi tentativi di limitare le libertà dei lavoratori. Ecco, secondo te, per rafforzare l'unità dei lavoratori del trasporto pubblico con le altre categorie, cosa si può fare? Beh, allora cominciamo col dire che le manifestazioni di sciopero saranno sicuramente in aumento, visto e considerato che alla fine di quest'anno per il comparto autoferrotranviere è scaduto il contratto nazionale, quindi un'altra tegola che cade sopra una categoria già martoriata da tantissimi problemi. Dopodiché l'unitarietà con le altre categorie ovviamente deve partire continuando a organizzare presidi come questi che vedono coinvolti non solo gli studenti, ma anche, per esempio, abbiamo sentito parlare i taxisti, abbiamo sentito parlare altre categorie, quindi questo potrebbe essere senz'altro uno degli strumenti, maggiori presidi e continuare a organizzare eventi come questo. Ok, vabbè, un'altra domanda. Noi raccogliamo sia nelle piazze dei sindacati di base, ma anche nelle piazze della CGIL, che tra i lavoratori c'è la volontà di arrivare a un vero sciopero generale, grande, per cacciare il governo Meloni. Secondo te, secondo voi, cosa si può fare in questa direzione? Beh, allora, i tempi sono maturi, abbiamo visto il nostro governo, quali sono le politiche, sono politiche che vanno sempre a favore dei potenti e comunque mettono sempre al bando i lavoratori. Le categorie sono allo sbando, non riescono neanche a contrastare quello che è il salario minimo, che è una cosa ovviamente che c'è in tantissimi stati della comunità europea. Quindi, ripeto, per me la cosa importante è continuare a fare manifestazioni come questa e riuscire magari nelle singole città a coinvolgere anche, che ne so, le scuole, piuttosto che appunto anche le organizzazioni sindacali confederali, perché noi sappiamo benissimo che molti lavoratori iscritti alle organizzazioni confederali comunque sostengono quelle che sono le nostre lotte. Bisogna riuscire a coinvolgere più persone possibile. Trascinarli. Assolutamente. Okay.